figli di un Dio minore. Cronache e storie di impegno sociale. Buona giornata a tutti da Valentina Furlanetto. Giovani, carini, disoccupati, per parafrasare un film di qualche tempo fa, ma con la triste aggiunta di senza dimora. Le persone in difficoltà economica che si rivolgono ai dormitori e alle mense dei poveri sono al 50% italiane e sono sempre più giovani, precari e divorziati. È quanto Raffaele Gnocchi, responsabile area grave emarginazione adulta della Caritas Ambrosiana, ha raccontato al nostro Paolo Piacenza. Niente di nuovo sotto il sole. Ormai è un dato, un trend che negli ultimi 4-5 anni risulta evidente, cioè la percentuale di italiani che si rivolgono ai servizi del territorio, che vivono in condizioni di senza dimora e alcuni di questi poi in condizioni di grave sofferenza come clochard, è un dato che non cala, si mantiene costante, col problema che almeno il 50% di tutte le persone che ogni anno si presentano ai servizi, almeno io parlo di quelli di Caritas, sono persone nuove. E quindi si potrebbe dire che ogni anno c'è un incremento di circa 500 persone nelle file delle persone senza dimora. E quelli che non vengono più ai servizi non è che abbiano risolto i loro problemi, vanno presso altri servizi, ma presentano comunque le caratteristiche che ti dicevo: giovane, disoccupato, anche talvolta con una scolarità medio-alta, medio-alta intendo diploma, ecco, per intenderci, qualche laureato, con il problema fondamentale della casa, ti dicevo, e non ultimo il fatto che hanno questo aspetto della separazione, del divorzio, come un dato caratteristico, ecco, nel 90% dei casi. Ecco, stiamo parlando di italiani, perché per la maggior parte senza fissa. Stiamo parlando di italiani senza dimora. Qual è la percentuale degli italiani tra i senza dimora? Ma più o meno mi verrebbe da dire un 50%. Perché sui 3.000 che ti dicevo, 3.500 che stimiamo a Milano, questi sono stimati gli italiani, ai quali ne aggiungi altrettanti di stranieri, anche se qui bisognerebbe poi fare una differenziazione un po' tecnica, ma cerco di spiegarmi semplicemente. Allora, l'italiano senza dimora è una persona che ormai ha un sacco di problemi e si trova in una situazione gravemente marginata. Il senza dimora straniero può essere la persona che temporaneamente è senza una casa, condivide il dormitorio, va alla mensa, ma non per questo ha un progetto migratorio fallito, non per questo ha una sofferenza mentale, non per questo ha un futuro di emarginazione grave. Non so se mi spiego, ecco. Chiarissimo. Nella fila che tu incontri all'Opera San Francesco, perché prima me l'hai citata, che incontri alla mensa, trovi sia l'uno sia l'altro, ma i percorsi di provenienza e le prospettive sono completamente diverse. L'ultima osservazione invece rispetto a una lettura più recente è capire come e in che modo da quello che avete osservato in quest'ultimo anno e mezzo ha inciso la crisi su questa trasformazione, cioè se questa è una trasformazione, certo, che dura da tempo e che probabilmente è legata anche a una trasformazione del mondo del lavoro anche e del mondo familiare, della vita familiare, da quello che capisco, certo, come sta incidendo la crisi su questo fenomeno? Allora, due cose. Noi lo sappiamo, la flessibilità lavorativa qualcuno se la può scegliere, forse su tu ed io, non tutti, e quindi qualcuno la subisce. Vabbè, ma questo è un dato, nel senso che non è che dobbiamo fare discorsi sulle le politiche macroeconomiche in termini di lavoro. Il problema è che le persone che sono meno provviste di capacità, meno provviste di risorse, meno provviste di agganci anche relazionali, che vuol dire anche famiglia, che tengono, di fronte al problema del temporaneo licenziamento reggono molto di meno e rischiano di più di entrare in un circuito di grave emarginazione. Mi spiego meglio: la persona che fa l'operaio e che magari ha in seguito a una separazione o un divorzio da mantenersi il monolocale a 600 euro al mese, alla fine se perde il lavoro anche temporaneamente, anche soltanto per 6 mesi, e non può pagare l'affitto, capisci che entra in un circolo assolutamente critico. Sentiamo alcuni di questi clochard, Antonio e Francesco. Io sono napoletano, però sono 15 anni che sto qua. Quanto è importante per lei stare assieme agli altri qui? Per me è un significato importante, perché ci sono persone che non possono, loro aiutano, le persone che come me, diciamo. Sì, tanti amici, ci sono persone stupende, anche i volontari, soprattutto i volontari, diciamo, gli operatori, diciamo. Purtroppo la vita è cambiata, è successo un po' di tutto e perciò mi ritrovo solo, mi ritrovo fuori dal mio paese perché sono siciliano. È così, almeno riesco a superare questa, diciamo, grande crisi, grande sofferenza, grande solitudine. È un po' di tutto, diciamo, ma piano piano speriamo di uscirne fuori. L'importante è stare riuniti e passare quella giornata tutta in allegria e dimenticarci di quello che siamo, di quello che e speriamo nel futuro, in un giorno migliore. Cambiamo argomento, parliamo di diritti dei bambini. È appena uscito un libro che si chiama Buoni genitori. L'autrice è docente di logica e filosofia della scienza presso la facoltà di medicina e chirurgia all'Università La Sapienza di Roma. Si chiama Chiara Lalli e questo libro è dedicato alle famiglie allargate. Si sente sempre dire che a priori gli omosessuali non potrebbero essere genitori perché c'è qualcosa che non va nel loro orientamento sessuale o perché il bambino ne soffrirebbe o perché è innaturale, contro la famiglia tradizionale. Se ci mettiamo a riflettere ci vengono in mente tanti degli argomenti. Io mi sono rivolta a una enorme quantità di letteratura in merito, letteratura scientifica, soprattutto americana, ma non solo, che tranquillizza le paure da tutti i punti di vista, perché appunto questi studi lasciano emergere che non esiste nessuna differenza intrinseca tra un genitore con un certo orientamento sessuale, cioè eterosessuale, e un genitore con un altro orientamento sessuale, mettiamo omosessuale, perché a contare non è tanto l'orientamento sessuale del genitore quanto come quel genitore si prende cura del proprio figlio, come lo ama, come gli vuole bene, come lo coccola, cioè la qualità relazionale conta, non l'orientamento sessuale, e che questi due elementi sono assolutamente non connessi, nel senso che non è assolutamente detto che un certo tipo di orientamento sessuale garantisca la felicità. Basta pensare a quanti disastri accadono nelle famiglie eterosessuali, a quanti abusi, a quante violenze, a quanti maltrattamenti, quindi l'essere eterosessuale non garantisce l'essere un buon genitore. Così, allo stesso modo, l'essere omosessuale non dovrebbe far scattare l'automatismo molto italiano, ma non solo italiano, a me, che l'essere omosessuale esclude a priori necessariamente dall'essere un buon genitore. La critica che viene sollevata alla posizione che lei sostiene spesso è quella che gli studi non sono stati abbastanza approfonditi anche nel tempo, non c'è stato un arco di tempo così lungo da poter trarre delle conclusioni sullo sviluppo psicologico e emotivo di questi bambini che crescono in coppie gay. Ma allora, intanto, come dicevo prima, ci sono ricerche che partono e cominciano dagli anni 60 negli Stati Uniti, quindi insomma non lo so se 50 anni può essere un periodo di cui uno dice è poco tempo, non è significativo, possiamo girarci dall'altra parte e rimandare al prossimo secolo una posizione. Questa è la prima questione. La seconda è che se è vero da un certo punto di vista che queste famiglie sono famiglie nuove, diciamo così, è vero fino a un certo punto, perché se pensiamo anche alle tante circostanze in cui figli, per esempio nei periodi di guerra, sono cresciuti con una mamma e un'altra figura femminile, che poteva essere una zia, una cugina, una nonna, se pensiamo a quante famiglie non si adattano al modello di papà, mamma e figli, cioè con la cosiddetta famiglia tradizionale o naturale, che sono entrambe definizioni assolutamente imprecise. Beh, se pensiamo a questo ci rendiamo conto che il crescere con situazioni eterogenee, con vari modelli, con vari assestamenti è sempre accaduto, e basta veramente spostarsi nel tempo e nello spazio per accorgerci che i modelli familiari sono assolutamente vari, diversi, complessi e a volte anche molto complicati, molto numerosi, le famiglie allargate, le famiglie ricomposte. Da Valentina Furlanetto è tutto, l'appuntamento domenica prossima alle 14:15.